cacciati e roventi, arde l'acciaio, trabocca la terra, annuncia il rintocco, una nuova guerra. Ehi, dove sei? Dentro quest'ora che lenta declina, non più dolore, non più smarrimento, solo il tuo sguardo mi penetra dentro. E piove dal cielo, acidi o liquidi, e piovono dal cielo. E piovono dal cielo, acidi o liquidi. One is here and one is above. I don't know round where all is well. A lonesome road into the dark, where all is calm, where all is stark. Home is the sailor home from the dreams and down to his own. One is here and one is above.